Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questo appuntamento con i quotidiani in edicola. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, mentre sono quasi le 7:35. Le prime pagine sono ovviamente dominate dalla positività di Donald Trump e della moglie Melania al coronavirus, ma non è questo ovviamente l'unico tema. Il Covid lascia il segno sui conti IMSS, infatti l'apertura del Sole 24 Ore di oggi con tutti gli approfondimenti del caso a cura di Davide Colombo, poi vi leggo qualche passaggio. C'è anche la questione fisco, proroga al 30 ottobre, aiuto anticrisi per i bilanci del 2020, la scadenza del 20 di agosto, rinvio senza sanzioni, ammortamenti sospesi. Un'intervista poi a Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria Alberghi, sul tema dei turisti stranieri che mancano e che quindi, dice Colaiacovo, la crisi durerà per questo tutto il 2020 e poi dal 2021 vedremo se possibile ricostruire ovviamente. Trump e First Lady contagiati, campagna elettorale in bilico, come vi dicevo questa è la foto notizia un po' ovunque. Il presidente degli Stati Uniti e la consorte Melania sono stati contagiati dal Covid-19, sotto accusa il viaggio senza mascherine con l'assistente Hope Hicks, ex modella anche lei, secondo la casa, ora consigliera di Trump. Secondo la Casa Bianca le condizioni del presidente sono buone, forti le implicazioni sulla campagna elettorale al momento sospesa. Vi dicevo dei conti dell'INPS, prima di procedere qualche passaggio dell'articolo che troverete poi a pagina 5 firmato da Davide Colombo. È un'impronta pesante, scrive Colombo, quella lasciata dall'emergenza pandemia sui conti dell'INPS. Il bilancio assestato 2020 approvato ieri dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza segna infatti un risultato di esercizio negativo per oltre 26 miliardi con un peggioramento di 19,6 miliardi rispetto alle previsioni originarie scritte un anno fa, quando il Covid-19 ancora non si conosce, del Covid-19 non si conosceva il nome. A pesare sono stati 14,9 miliardi di minor gettito contributivo accertato e dovuto alle sospensioni decise dal governo, mentre gli altri 4,1 miliardi sono frutto delle maggiori prestazioni sostenute con la cassa dell'istituto nei mesi dell'emergenza e che si sono aggiunti agli interventi finanziati direttamente con trasferimenti statali. I saldi a fine anno tengono conto dell'impatto dei decreti 18 e 34, Cura Italia e Rilancio, ma non ancora del DL 104 approvato in agosto anche per rifinanziare la cassa integrazione. Questo solo l'inizio appunto dell'articolo dedicato al tema INPS che è stato scelto oggi dal Sole 24 Ore come tema di apertura. Andiamo al Corriere della Sera. A tutta pagina, Trump positivo in ospedale, cure sperimentali per il presidente. Una collaboratrice stretta, l'ex modella Hope Hicks, è malata, la Casa Bianca lo sapeva. Sulle condizioni di Trump, il Corriere poi scrive, alla febbre, affaticato, anche Melania contagiata, troppi come noi negli Stati Uniti. Questo ha twittato la First Lady ed è stato letto anche come una critica al marito, l'imprudenza di appunto andare in giro senza mascherine e senza particolari cautele. Poi, per quel che riguarda invece casa nostra, di spalla troviamo processo a Salvini, l'ipotesi di sentire Conte e Di Maio. Ne scrivono Giovanni Bianconi e Goffredo Buccini, è il giorno dell'udienza preliminare del processo a Matteo Salvini, imputato a Catania per il caso della nave Gregoretti. Fiducia nei magistrati, ma giustizia da riformare, dice il leader leghista. Tensione per i cortei degli antagonisti e il giudice potrebbe sentire anche il premier Conte e Di Maio. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, l'inchiesta che interessa la Santa Sede, verifiche della Santa Sede sui soldi in Australia, il titolo I bonifici di Becciu a chi accusava il rivale. La questione è presa in mano da Fiorenza Sarzanini. Soldi inviati in Australia su disposizione di Angelo Becciu potrebbero essere stati utilizzati per comprare, tra virgolette scritto, i testimoni del processo al rivale, il cardinale Pell, accusato di pedofilia e poi prosciolto. È l'ipotesi investigativa che rischia di dare una svolta clamorosa all'inchiesta vaticana. Dopodiché andiamo alla pagina, la prima pagina di Repubblica, mascherine in tutta Italia, questo è il titolo di apertura, quindi si parte dall'Italia, ma al centro pagina anche qui Donald Trump, questa volta fotografato accanto a Hope Hicks, ex direttore della comunicazione della Casa Bianca, colpito dal virus, Trump in ospedale, campagna elettorale a rischio. Per quel che riguarda invece il tema mascherine in tutta Italia, Covid-19, leggiamo: dopo il Lazio e la Campania, il governo pronto a estendere l'obbligo di indossarle all'aperto. Gli esperti temono un peggioramento della epidemia. Positivi due del Napoli, intesi come calciatori, nuove ombre sul campionato. Tra vita e romanzo si scatena la guerra dei Carrer, lo scrittore e l'ex moglie, un'altra questione approfondita poi da Repubblica nelle pagine interne dopo il divorzio, e la questione è il libro scritto dallo scrittore girando attorno alla loro vita di coppia, questione che invece doveva restare riservata secondo gli accordi presi con il divorzio. Ma poi c'è ovviamente un approfondimento politico, Repubblica sceglie la lotta all'interno dei 5 Stelle, Casaleggio rompe con i 5 Stelle e stiamo affondando, dice Bugani, e qui vi leggo qualche passaggio di questa intervista. Max Bugani, già socio di Davide Casaleggio nell'associazione Rousseau, ora consigliere comunale a Bologna, il movimento è come la Costa Concordia, dice in questa intervista rilasciata da Annalisa Cuzzocrea. Anche lì c'era il personale che tranquillizzava, che diceva non c'è pericolo, è solo un guasto all'impianto, ma mentre la nave sfondata imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo. Ecco, questo è quello che sta accadendo ai 5 Stelle. Ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda. A questo punto deve dirmi chi, dice Cuzzocrea. I movimenti sono sotto gli occhi di tutti, alcuni stanno cercando di garantirsi un futuro anche se il movimento dovesse scomparire. Si riferisce ai dirigenti favorevoli alla fine del limite del doppio mandato? No, risponde lui, mi riferisco soprattutto a cambi di posizione palesi, fatti per attirarsi le simpatie di alcuni poteri del nostro paese. Anche lei, come ha detto Alessandro Di Battista, pensa che un organo collegiale possa nascere perché gli altri hanno paura che il capo diventi lui? Quello che io penso è che questa guida collegiale possa nascere, ma non deve essere proposta nessuna cinquina. Gli iscritti dovrebbero essere liberi di fare dei nomi di persone interne al Movimento 5 Stelle, nessun pacchetto preconfezionato. Anche nel calcio ci sono allenatori bravissimi che però se retrocedono si dimettono. Questo doveva fare chi finora ha guidato dopo le ultime sconfitte, ma non è accaduto. L'intervista prosegue, ci sono diverse altre colonne da leggere su Repubblica, vi ricordo. Vorrei andare a pescare però immediatamente un'intervista dal Fatto Quotidiano, sempre sullo stesso tema: dopo Di Battista tocca a Casaleggio, stop servizi web. Scrive Luca De Carolis. Mezzo Movimento 5 Stelle gli urla contro, ma l'eretico insiste. Ad accordi e disaccordi Alessandro Di Battista indica il burrone. L'alleanza strutturale con il PD indebolisce il movimento, che riporterebbe il bipolarismo che è nemico del cambiamento. E poi esiste un mondo fuori dei palazzi e avverte, inteso sempre Di Battista, se passasse una linea diversa dalla mia farei altro, cioè fuori dal Movimento 5 Stelle. Ma niente scissioni, io sono del movimento. Invece Davide Casaleggio, il patron di Rousseau che lo voleva e lo vorrebbe capo politico, pensa alla sua guerra con i big e dal blog delle stelle spara forte. Con enorme dispiacere siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e iniziative programmate per questo trimestre. Pensieri e parole da un giorno tossico per il movimento, con l'erede di Gian Roberto che dà corpo alla minaccia contenuta nella lettera agli iscritti di una ventina di giorni fa, quella di fermare i motori della sua creatura per i mancati versamenti degli eletti alla piattaforma. In assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili le spese, Verga Casaleggio, e le famigerate fonti del Movimento 5 Stelle rispondono con sarcasmo: stop ai servizi, ne sentiremo la mancanza. Ostentano indifferenza di fronte al Casaleggio, che annuncia la chiusura di una parte degli uffici e lo stop a vari servizi, dalla gestione delle liste elettorali, un siluro con vista sulle comunali del 2021, locali al portare l'ex iscritti, fino allo slittamento del villaggio Rousseau previsto per il 4 di ottobre. Così, primo l'incipit, diciamo, dell'articolo di Luca De Carolis su Il Fatto Quotidiano, che per la sua apertura comunque sceglie a tutta pagina: se i contagi salgono si perde il controllo, altri 900 focolai, allarme di governo e Crisanti. La stampa, Trump in ospedale per il Covid, questa è l'apertura. Il presidente Melania positivi al test, terremoto sulla campagna elettorale per le presidenziali americane, triplica in Italia la diffusione della malattia. L'OMS picco a fine ottobre, conti IMSS travolti dalla pandemia. In prima anche il suicidio della giornalista russa, l'ultimo grido di Irina: mi ha ucciso Putin, sono morta per colpa della Federazione Russa, sono poi le parole testuali di Irina. Il terribile messaggio lasciato da Irina Slavina è stato scritto il giorno dopo un'altra accusa, quella di Alexei Navalny. Andiamo poi nelle pagine interne della stampa subito dopo la viabilità per l'intervista che viene rilasciata dal ministro degli esteri turco in visita a Roma a Francesca Sforza. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta In Primo Piano. Dicevamo dell'intervista rilasciata dal ministro degli affari esteri turco alla stampa, a Francesca Sforza. I primi a entrare nella hall dell'albergo nel centro di Roma, che ospita il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, sono gli uomini della squadra incaricata di mettere le bandiere. In pochi minuti, piantane dorate con lo stendardo rosso e la mezzaluna bianca riempiono la stanza in cui è atteso l'arrivo del numero 2 del governo Erdogan. La delegazione, numerose con le mascherine d'ordinanza, fa in modo che nulla sfugga alla sicurezza e all'estetica d'occasione. Vasi di fiori e vassoi vengono spostati e riallineati, le luci vengono direzionate, abbassate e accese per le diverse angolazioni. Contestualmente a Bruxelles il Premier Conte sta dichiarando ai giornalisti la posizione assunta dal Consiglio europeo nei confronti della Turchia. Non ci saranno sanzioni, ma la fermezza sarà massima, e il video trasmesso su Facebook con le parole del presidente del Consiglio italiano passa di cellulare in cellulare tra i diplomatici turchi. Critici verso gli Stati Uniti in Medio Oriente, con tattici con Mosca, fermi sulle loro posizioni nei maggiori scacchieri internazionali, i turchi contano sull'Italia, forte alleato NATO, per rafforzare le relazioni con l'UE. Ministro Cavusoglu, chiede Sforza, l'Europa ha scelto di non procedere con le sanzioni, ma di non abbandonare la via della fermezza nei confronti del suo paese. Cosa ne pensa? Qualsiasi forma di sanzione sarebbe controproducente, risponde il ministro, e non farebbe che rafforzare ulteriormente la nostra determinazione a proteggere i nostri diritti e quelli dei turco-ciprioti. La Turchia ha solo difeso i suoi diritti e interessi legittimi e quelli dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale contro tutti i tentativi di imporre rivendicazioni massimaliste ed eccessive sui confini marittimi nella regione. È urgente normalizzare le nostre relazioni e l'unico modo per farlo è dividere le rivendicazioni di alcuni membri dell'UE dalle relazioni Turchia-UE. Intanto la Russia si è offerta di mediare tra voi e Cipro. Ci riuscirà? La Russia può benissimo assumere un ruolo di mediatore tra le due parti dell'isola solo se agirà in modo imparziale. E poi c'è la crisi esplosa nel Nagorno-Karabakh. Non crede che il sostegno all'Azerbaigian comprometta le vostre già fragili relazioni con l'Armenia? Se le nostre relazioni con l'Armenia sono fragili è perché l'Armenia ha scelto un percorso aggressivo nella regione e non riesce ad adottare una politica tale da diventare un partner costruttivo e responsabile. E via via prosegue l'intervista a Cavusoglu, ma non tentenna, direi, non dà alcun cenno di apertura sostanziale. O meglio, qualche cenno di disponibilità al dialogo, ma insomma nessuna apertura sulle trattative. Andiamo al quotidiano nazionale, in particolare io in mano La Nazione, l'apertura comunque è allarme Covid, rapido peggioramento, l'Istituto Superiore di Sanità è pessimista, aumentano contagi e ricoveri, focolai nei luoghi di lavoro, nelle scuole, l'ipotesi mascherina obbligatoria in tutta Italia, anche all'aperto, campagna del governo, scaricate l'app Immuni. Al centro pagina anche qui la foto di Donald Trump con la consigliera Hope Hicks, è stata lei, questo è il titolo scelto dal quotidiano nazionale, che poi porta qualche approfondimento sulla questione Covid in Italia nelle pagine interne di Loredana Del Ninno. In particolare un'intervista con Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che redige settimanalmente un rapporto sui contagi e dice Cartabellotta inizia a delinearsi una nuova geografia nella diffusione del virus che sembra stia viaggiando in Italia a due velocità, la velocità del nord e la velocità del sud. Gli ultimi dati lasciano ipotizzare che la minor percentuale di positivi sui tamponi effettuati in alcune regioni settentrionali possa in parte essere dovuta all'aumento dei soggetti protetti da anticorpi, la tanto sospirata immunità di gregge. In particolare, dice Cartabellotta, nella settimana 23-29 settembre il rapporto positivi su casi testati è sotto la media nazionale, 3,1%, in alcune regioni del nord fortemente colpite dall'emergenza come Lombardia, e qui siamo a 1,9%, Emilia-Romagna 2,2%, mentre è superiore in Campania 5,4%, Sardegna 4,3%, Sicilia 3,5%. Il differente impatto della pandemia tra nord e sud emerge in maniera più netta monitorando la percentuale dei casi attivi ospedalizzati che in numerose regioni del centro-sud è nettamente superiore alla media nazionale del 6,6%. Insomma, poi si discute con Matteo Bassetti, sapete ormai arcinoto, ordinario di malattie infettive primarie a San Martino di Genova, e Massimo Clementi, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, sulla ipotesi della immunità di gregge, questo su Quotidiano Nazionale. Manifesto. Donald Trump, in un'immagine del genere You're Fired, col dito puntato, Donald e Melania Trump sono positivi al coronavirus e il titolo è La casa sbanda. Poi troppi focolai, governo in allarme, sempre sul Manifesto, questo è il titolo relativo all'Italia e ci porta sulla prima anche la questione dell'aborto. La destra vieta la pillola nei consultori e la questione verte attorno alla regione Piemonte. Libero sceglie un'apertura su Salvini, oggi alla sbarra per avere fermato i clandestini. Ho la coscienza pulita, PD e grillini invece no. L'intervista a Matteo Salvini su Libero, una violenza alla Costituzione, il mio procedimento, sospesa la democrazia, bisogna reagire, dice così lui. Mancano gli ospedali, sempre dalla prima su Libero, ci risiamo con le carenze sanitarie. Andiamo al Messaggero che sceglie un'apertura su ristoranti, palestre, cinema, il governo studia le chiusure, il piano se aumentano i contagi, il Natale fa paura, si pensa di vietare feste e viaggi, regioni in ordine sparso. Vi leggo questo passaggio di apertura del Messaggero, che è il primo e l'unico a riportare queste indiscrezioni e possibilità di azione anti-coronavirus. Palestre, cinema e ristoranti potrebbero chiudere prima, i contagi non diminuiscono, il governo studia possibili restrizioni. Palazzo Chigi non esclude di estendere a tutta Italia l'obbligo di mascherina all'aperto imposto nel Lazio. Le regioni vanno in ordine sparso, 1000 scuole con alunni positivi, riparte la didattica online. E poi per quel che riguarda specificamente Natale, dobbiamo salvare il Natale, ripete il professor Massimo Galli, direttore di malattie infettive del Sacco di Milano, ma quando gli mostrano i dati delle ultime 24 ore, il secondo giorno consecutivo, attorno ai 2500 nuovi casi positivi, va oltre. Ma qui rischiamo di dover chiudere prima, altro che Natale. Le prossime 3 settimane saranno decisive, dobbiamo ancora passare la nottata, anzi sta diventando ancora più buia. Il giornale Disonestà, disonestà e Rousseau chiude. Troppi morosi fra i 5 Stelle, Casaleggio dimezza il sito. A tutta pagina questa è l'apertura del giornale. sono nati al grido di onestà, onestà, ora rischiano di morire al grido di disonestà, disonestà, scrive Francesco Maria Del Vigo. Il paradosso grillino sta diventando così allegramente tragico da far venire il sospetto che sia stato scritto da un comico, Grillo escluso, perché ora a gridare onestà, onestà, prosegue poi a pagina 11 l'articolo, cerco di recuperare giusto questa riga perché siamo giunti alla conclusione. Niente, troppo complicato. È il gran visir Davide Casaleggio e l'invito non è rivolto alla stramaledetta casta, ma ai suoi stessi parlamentari. Ci dobbiamo separare. Ricordo solo che Avvenire apre su Covid alla Casa Bianca, positivo il leader negazionista e La Verità, Salvini, parte il processo più strampalato del mondo. C'è GR24, ci ritroviamo con Si può fare alle 8.30. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.